Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Lui rispondeva che lui aveva una missione, quindi parlava. Per amore del mio popolo non tacerò, come ricorda il fratello Emilio, Don Peppino Diana rispondeva così a chiunque lo invitasse ad essere più prudente, a non esporsi così tanto lì nel feudo dei più spietati boss, a non affrontare così a viso aperto le leggi della camorra. Ma lui, il parroco di Casal di Principe, andò avanti per la sua strada, trasformando l'imperativo della parola che si era dato anche in un documento scritto che raggiunse tutte le case del comune, una sfida ai boss che impuniti potevano anche girare per le strade con le armi in pugno, una sfida che Don Peppino Diana pagò con la vita 15 anni fa. Lo uccisero con 5 colpi il 19 marzo del 1994 e così lo zittirono, ma da allora la voglia di ribellione si è cominciata ad insinuare nella popolazione come una goccia lenta ma costante, tanto che 15 anni dopo, proprio lì nel fortino che fu di Sando e dei Bidognetti, centinaia di persone hanno partecipato alla manifestazione promossa da Libera. Un evento che è stato l'esito di un percorso fino a non molto tempo fa impensabile, ammette Renato Natale. Natale era il sindaco di Casal di Principe quando Don Diana fu ucciso ed era suo amico. Qualche anno fa non sarebbe stato possibile, ma non è stato possibile perché abbiamo fatto molte iniziative dal giorno dopo la morte di Don Peppe Diana. Ma per molto tempo queste iniziative erano prerogative di poche persone. Diciamo che nel corso di questi 15 anni, lungo questa strada, questo percorso che abbiamo intrapreso in quella giornata dei funerali di Don Peppe Diana, abbiamo visto però arrivare sempre più persone, sempre più militanti intorno alla sua figura e ad organizzare le iniziative per lui. Questa volta abbiamo avuto con il Comitato Don Diana e con Libera decine e decine di giovani. Quindi una manifestazione che è arrivata così numerosa, così importante, è arrivata dopo 15 anni dalla morte di Don Diana, quando nel frattempo sono cambiate tante cose, ci sono stati anche tanti arresti, ma i primi tempi, appunto, gli anni subito dopo l'uccisione di Don Diana, come lei ricordava, eravate pochi carbonari. Carbonare, se vogliamo usare questo termine. Beh, il carbonare è uno che lavora in clandestinità, noi non abbiamo mai lavorato in clandestinità, siamo stati sempre alla luce del sole, ma con difficoltà, certamente con enorme difficoltà. Tenga conto che all'inizio c'erano state una serie di calunnie sul nome di Don Peppe Diana, si tentò di infangarne il nome, ci furono giornali locali che fecero vere e proprie campagne di stampa su questo versante. La stessa chiesa, la chiesa di Don Peppe, si ritrovò in seguito a queste calunnie, alla paura di scommettere sulla figura di Don Peppe Diana, si ritrovò ad avere atteggiamenti fritti, non dico ostili, ma insomma certamente di molta cautela. Per cui eravamo pochi amici, poche persone, gente che veniva dalla società civile, da questa città, che invece ha scommesso sul nome di Don Peppe Diana, e abbiamo vinto la scommessa, perché tutti i processi che ci sono stati hanno dimostrato come Don Peppe era una figura cristallina, era una figura impegnata sul fronte di lotta armata organizzata, e la sua morte nasceva proprio da questo suo impegno. Quando lei dice ci organizzavamo da noi, eravamo in pochi, ecco, che cosa vuol dire? C'era bisogno di coraggio, c'era bisogno di una dose, come dire, di coraggio per poter portare avanti questa iniziativa. Ma noi nei primi anni, dal mese successivo alla morte di Don Peppe Diana, abbiamo fatto qui un corteo con migliaia di persone. Un anno dopo, nel primo anniversario della sua morte, una marcia per la via della città. Abbiamo organizzato una serie di convegni, mi ricordo, ne chiamammo uno aspettando la primavera, con una serie di incontri settimanali. Eravamo da soli, a poco, in 3-4, a farci carico dell'intera organizzazione, a prendere contatti, a fare i manifesti, ad attaccare sui muri. C'erano soggetti che ci proponevano ostacoli, forze politiche che ci accusavano di voler strumentalizzare questa morte e questo evento a fini nostri. C'era chi diceva che Don Peppe era stato ucciso per questione di donne, che quindi in questo modo non era un eroe, non era nessuno, e la sua morte volte non aveva il valore che volevamo dare noi, e quindi abbiamo dovuto combattere contro le calunnie e contro queste maldicenze. Quando lei dice che alcuni casomai vi osteggiavano, che vuol dire? Vi trovavate per esempio i manifesti con il calendario degli eventi o delle organizzazioni strappate? Non trovavate persone che vi aiutassero ad attaccarli questi manifesti per non essere direttamente coinvolti in questo movimento, diciamo, di ricordo e di memoria di Don Peppino Diana? Sì, certo, ci sono stati anche momenti in cui è avvenuto questo, che trovavamo qualche difficoltà, momenti però, in modo alternato, dipendeva molto dagli eventi più generali. Facciamo l'esempio degli ultimi mesi, prima dell'arresto di Setola, con i morti ammazzati al centro della strada. Queste cose certamente provocavano nella popolazione un atteggiamento di ritirare nel privato, di starsene attenti, di essere più accorti. Poi abbiamo avuto anche momenti in cui invece questo non avveniva, quando c'era maggiore fiducia nello Stato, più fiducia negli interventi, e quindi si trovava anche il coraggio di tranquillamente di partecipare e di dare una mano, di dare un contributo. Insomma, in questo senso abbiamo avuto anche momenti però in cui abbiamo trovato qualche difficoltà a trovare chi ci attaccasse i manifesti, certo. E voi avete mai avuto delle minacce, voi organizzatori e lei come sindaco? Un pentito di recente ha rivelato che 15 anni fa, mentre io facevo il sindaco, insomma, dopo la morte di Don Peppe Diana, la Camorra aveva programmato di uccidermi, di togliermi di mezzo. Questa cosa poi non fu portata a termine e si trovò invece la strada del complotto politico. Tre consiglieri della mia maggioranza passarono con l'opposizione e provocarono lo scioglimento del Consiglio Comunale. Successivamente, dopo la morte di Don Peppe, dopo che si avviò l'inchiesta Spartacus, denominata Spartacus, quella che poi portò all'arresto e al grande maxi processo, certo. Il grande maxi processo, mi fu proposto una scorta, fui chiamato dal capitano dei carabinieri, c'era un ordine da Roma per fornirmi una scorta che io rifiutai, che non accettai. Successivamente è capitato che sono state periodi in cui la notte era interrotta da telefonate mute, che hanno un'ottima efficacia nel creare tensione, da telefonate poi anonime di minaccia, l'episodio che mi fu scaricato un camion di etame fuori al portone. Questo è capitato per un certo periodo, ma adesso sono molti anni che tutto ciò non avviene, non è più capitato. Erano gli anni anche precedenti gli arresti di molti boss importanti provenienti proprio da Casal di Principe, penso ai Bidognetti, agli Schiavone, Sandokan. No, in verità queste cose sono avvenute dopo questi arresti, dopo il grande processo, il grande sfida di Spartacus, come se ci fosse stata da parte dell'organizzazione una rabbia conseguente agli arresti e quindi meno attenzione, perché poi queste cose nei confronti di una figura pubblica, un personaggio pubblico, possono provocare dei danni all'organizzazione criminale, per cui loro hanno una loro, come dire, economia del delitto, fanno attenzione a certi aspetti. Quando ci capitano queste cose è un segno più di debolezza che non di forza. La stessa morte di Don Peppe Diana nasce in un momento in cui c'era una guerra feroce fra di loro, bisognava definire chi governava il territorio, era un momento di crisi dell'organizzazione criminale, per cui il controllo degli eventi era meno forte e in quel clima, in quell'ambiente può capitare poi un evento più drammatico, più tragico, insomma. Ma è un segno di debolezza più che un segno di forza questo. Ritorniamo proprio a quel 19 marzo del 1994. Io la prima cosa che su questo vorrei chiederle è il suo ricordo di quella giornata. Io la mattina del 19 marzo, di quel 19 marzo, mi apprestavo a fare un caffè, come faccio tutte le mattine, quando mi arriva questa telefonata che mi dà questa notizia, che là, in quel momento, in un primo momento, non capivo, non riuscivo a rendermi conto, perché mi sembrava così assurdo che si potesse arrivare a tanto. Una volta che questa cosa si è capita, i sentimenti più disparati, la paura innanzitutto, hanno ucciso un prete, possono uccidere dei sindaco, la preoccupazione per i miei familiari, anche un pensiero di fuga, di andare via, poi il senso di responsabilità, sono il sindaco, sono il capo di questa comunità, il mio posto è lì, sul posto, vado sul posto, trovo ancora il suo corpo lì a terra con il volto sfigurato da questi colpi di pistola. Sono preso in quel momento da sconforto, da sentimenti, insomma, di difficile, ci vogliono forse scrittori più bravi di me per poterli esprimere. L'unica cosa che riesco a fare in quel momento, stavo in chiesa, è di inginocchiarmi e non lo so, pregare o imprecare nei confronti di una divinità che chiedeva questo tipo di sacrifici ai propri, alle proprie persone. Dopo però ho incominciato a lavorare da sindaco, a organizzare i funerali, a chiedere l'intervento alla forza dell'ordine, l'incontro col prefetto, col capo della polizia, organizzare la conferenza dei sindaci della zona versana, organizzare l'incontro con il Presidente della Repubblica per porre i problemi a quel livello. Dopo un po', insomma, era il mio ruolo, la mia funzione, ha preso il sopravvento e quindi siamo andati avanti. Che cosa aveva significato per la vostra comunità arrivare ad un giorno in cui anche il sacerdote veniva ammazzato? Era una specie di regola ulteriore che veniva buttata giù, e la mafia, la camorra in questo caso, compiva ancora un altro passo. Che significava per la comunità che viveva lì? La camorra pensava che nel dare questo segnale, che a lei era tutto possibile, anche entrare in chiesa ed uccidere una figura sacra nei pressi dell'altare, la camorra voleva dare un segnale forte di potenza e di asservimento totale della popolazione. E invece l'effetto fu il contrario, l'effetto fu di una grande manifestazione di cordoglio, di dolore, di rabbia da parte dei cittadini. Tutti i balconi e tutte le finestre della città furono imbiancate dalle lenzuola bianche che erano state usate come per la prima volta a Palermo come segno di lotta nei confronti della mafia. 20.000 persone scesero in piazza e girarono per la città, erano di Casal di Principe, certo erano anche dei comuni della zona, ma la popolazione locale fu direttamente partecipe di quei funerali. E da quel giorno, come ha detto il padre di Don Peppe, quel giorno questa gente ha cominciato un suo percorso di liberazione e hanno ottenuto quindi da Camorra un effetto contrario a quello che loro pensavano. Nella seconda parte dell'intervista, Renato Natale, ex sindaco di Casal di Principe, nell'anno in cui fu ucciso Don Peppino Diana, parla ancora del percorso fatto fino alla manifestazione del 2009. Un percorso anche attraverso i troppi silenzi, le devianze o le eccessive distanze delle istituzioni centrali. Storielle. Storiacce. La camorra è il nuovo terrorismo. L'anatema contro i boss della sua terra, Don Peppino Diana lo ripeteva nei suoi gesti quotidiani, lo mise nero su bianco su documenti fatti circolare nelle chiese, lo ripeteva alle madri vestite di nero che piangevano i figli uccisi. Tentò Don Peppino di ribellarsi a quelle leggi che soggiogavano il suo paese, Casal di Principe, ma poi, il 19 marzo del 1994, fu assassinato. 15 anni dopo, però, un piccolo miracolo è successo a Casal di Principe. La gente, come ha ricordato nella prima parte della trasmissione Renato Natale, ex sindaco del comune e amico di Don Peppino, è scesa in strada a ricordare che i casalesi sono un popolo, non un clan. E questo è stato l'arrivo di un percorso tortuoso in cui, ricorda l'ex primo cittadino, siamo stati spesso lasciati soli in passato. Don Peppino incomincia a lavorare con forza, con decisione, con continuità su questi temi dopo che in una sparatoria aveva perso la vita un povero ragazzo testimone di Geova che si trovava lì per caso, e lui in quel momento dice ed afferma che basta, che bisogna salire sui tetti, come diceva lui, per gridare un messaggio di vita. Ecco, quell'avvio di questo processo che poi ha portato ai documenti Per amore del mio popolo, ai documenti successivi cui in campagna elettorale chiedeva la Camorra di farsi da parte, eccetera, il fatto che lui lo portasse avanti, lo facesse crescere, creava sempre di più nella gente la sensazione che era possibile, che sperare di liberarsi era possibile, che era possibile parlare, che era possibile andare avanti. La morte di Don Peppe chiaramente voleva essere il messaggio contrario, che in effetti chi si metteva contro i clan doveva attendersi la morte, doveva attendersi la sua fine, e questo era il gioco che c'era in campo. La morte però di Don Peppe non è riuscita a bloccare questo percorso, forse la in qualche modo lo ha ridotto, lo ha bloccato per qualche momento, per qualche minuto, ma il percorso è andato avanti, tant'è vero che è andato avanti, che in piazza non solo c'erano gli scout provenienti da tutta Italia, non solo c'erano le scuole provenienti da tutta la provincia di Caserta, ma in piazza c'erano soprattutto cittadini di questo paese, cittadini stanchi di essere considerati casalisi nel senso di un clan, ma desiderosi di essere casalisi come popolo, nome di un popolo, lo gridò una ragazza della nostra scuola superiore durante la festa della polizia, casalisi è il nome di un popolo, non è il nome di un clan. Con questo orgoglio e con questa passione c'erano centinaia e centinaia di persone. Avevamo promesso sulla tomba di Don Peppe che il suo nome non sarebbe stato dimenticato, in qualche modo la promessa è stata mantenuta. Avete mantenuto questo impegno portando la dimostrazione di come lo stesso paese e la stessa sensibilità delle persone a cui lui si rivolgeva appunto 15 anni fa è cambiata. Il documento più forte di Don Peppino Diana fu quello che distribuì, ebbe il coraggio di distribuire il giorno di Natale del 91, in cui appunto disse che per amore del suo popolo non taceva. La comunità come accolse quel foglio, quel documento? C'era anche chi pensava che anche solo il fatto di mostrare di avere tra le mani questo documento potesse essere un elemento che compromettesse? Il documento fu, Don Peppe era la punta avanzata, ma c'era una chiesa locale molto impegnata su questi temi, non era solo Don Peppe, c'erano anche gli altri sacerdoti delle varie altre parrocchie della città e della forania, che aveva un'estensione di territorio più vasta, anche uscire fuori anche da Casal di Principe. Nel Natale del 91, dopo un mese e mezzo di lavoro all'interno del raggruppamento dei sacerdoti, si produce questo documento e viene distribuito in tutte le chiese, non solo di quella di Don Peppe Diana. Il fatto che era la chiesa nel suo, come si dice, nella sua complessità e nella sua totalità, a farsi carico di questo messaggio, dava coraggio e fiducia alle cittadine, per cui il documento circolò, entrò nelle case, la gente ne parlava nei bar, ne parlava nelle piazze, non ebbero paura di mostrarlo o di portarlo con sé, perché erano rassicurati dal fatto che la Chiesa era in prima fila, in prima linea intorno a questa battaglia. Era morto Don Peppe, casomai, che appunto per qualche tempo, in qualche ambiente, insomma, ha potuto provocare un po' di preoccupazione, un po' di paura. La gente ne parlava, lei dice, e in che termini? La gente qui è da secoli convive con fatti criminali, da qui da noi, come in Sicilia, come in altre parti dell'Italia meridionale, convive con l'espressione della criminalità. Per molti secoli però, per anni, questa criminalità era relegata in un ambito di intervento e di attività, il resto della gente viveva intorno per fatti suoi, insomma, non trovava né implicazioni positive né negative con questa criminalità. Negli anni 70, negli anni 80, incomincia invece ad essere una situazione molto diversa, è una criminalità che interviene nell'economia, nel settore produttivo, che riesce a costruirsi consenso tra la gente, un vero e proprio consenso che nasce dal fatto che distribuisce lavoro, che distribuisce denaro, che paga buste paghe e fa interventi sul territorio. È una criminalità che interviene nell'economia e subito dopo interviene nella politica, conquista i comuni, per cui per un periodo di tempo intorno a questa criminalità in qualche modo c'era anche un consenso sociale. A un certo punto però questa criminalità, insieme a tutte le guerre, incomincia a fare troppi morti e questo crea allarme. Questo allarme diventa terrore, ma anche desiderio forte di liberazione. Come in tutte le storie, tutte le vicende umane, a un certo punto arriva un momento in cui la gente sente bisogno di trovare qualcuno, un punto di riferimento. Esce fuori questa figura, Don Peppe Diana, ma insieme a lui gli altri sacerdoti della zona. A questo punto nasce fra la gente il desiderio del cambiamento, il desiderio della non diciamo della ribellione, ma semplicemente di ricominciare a vivere in una condizione di normalità, quelli che in altri posti vengono considerati normalità. Ci sono dei momenti in cui si vede mortificato questo desiderio, questa voglia di cambiamento, ci si sente abbandonati da chi dovrebbe darci una mano e in chi dovrebbe darci una mano, lo Stato nelle sue varie espressioni, forse dell'ordine, magistratura, ma soprattutto la politica che governa tutto lo Stato, che dovrebbe essere dare un'immagine di sé pulita, nitida, dignitosa. Ci sono momenti di questa lunga percorso, di questa storia, in cui si è avuta invece la sensazione dell'abbandono, l'abbandono da parte di un'opinione pubblica nazionale che non ci ha visto, non ci ha sentito, non ci ha capito, e l'abbandono da parte dello Stato, da parte delle forze dell'ordine, da parte della politica. In linea di massima erano dei nudi che dovevamo sbrogliarci da soli, insomma, dovevamo sbrogliarci noi. Non avevate l'esercito nelle strade, non avevate quei segni tangibili, diciamo, di una contrapposizione così forte a tutto quello che succedeva, ai tanti morti ammazzati per strada? No, questo certamente no. C'era lo sforzo ammirevole di di quei pochi carabinieri, pochi poliziotti che operavano in questo territorio, una forza ammirevole, perché lo affrontavano con coraggio, con intelligenza, ma insomma con pochissimi mezzi, con pochissime pochi uomini. Era stata possibile solo pochi anni prima che gruppi armati circolassero su un'auto per quasi mezz'ora, tre quarti d'ora nelle strade della città, sfidando gli avversari senza che ci fosse nessuno a contrastarli o a bloccarli o a fermarli, per carenze di uomini, per carenze a volte di volontà probabilmente, e certamente di mezzi e di strumenti. Ed infatti una delle cose che Don Peppino Diana scrisse fu anche che la camorra si era infiltrata anche in tutti i livelli per i vuoti istituzionali. Certamente, del resto l'indagine stessa di Spartacus, Spartacus 1, Spartacus 2, che riguardava le infiltrazioni politiche, l'indagine riguardava l'infiltrazione del sistema economico, ha dimostrato come c'era stata una presenza così massiccia, cioè, furono arrestati decine e decine di carabinieri e di poliziotti, rappresentati le guardie di finanza, anche all'interno della magistratura ci furono dei colpi, eccetera. Però diciamo che nonostante queste presenze così massicce, alla fine ha reagito, ha fatto polizia al suo interno, nella sostanza possiamo fidarci di questi magistrati, possiamo fidarci di questi poliziotti, di questi guardieri, di questi finanzieri, ripeto, un po' meno forse possiamo fidarci della politica.